Se in chiesa c'è una messa, non è che ti metti a chiacchierare. Oppure se qualcuno dorme e tu non lo vuoi svegliare, mica accendi la radio. Però quando hai appena detto alla tua fidanzata che la tua ex ti vuole rivedere, ecco, in quel silenzio lì c'è tanto, ma tanto. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Ho letto non so più dove che le decisioni vere, quelle importanti, quelle che fanno prendere una piega alla nostra vita, le prendiamo nei primi 3 secondi da che il dubbio si presenta. Credo fosse una ricerca di quelle americane o di quelle inglesi, ma non di quelle fumose, non di quelle fuffa che appaiono sulle riviste mensili di scienza divulgativa che si trovano dai barbieri o dai parrucchieri. No, era presa da una rivista seria, era roba scientifica svedese, credo, giapponese. Insomma, sta rivista sosteneva che proprio il nostro cervello, la nostra pancia, decidono in un tempo massimo di 3 secondi. Anche quando le scelte sembrano enormi, sembrano insormontabili, tutto il tempo che passiamo ad arrovellarci sulla scelta da fare, in realtà è speso per convincerci che quella scelta lì, quella già presa, sia quella giusta. Poi da lì le scelte vanno comunicate, cioè vanno raccontate alle persone che ci stanno vicine, ma anche a quelle che ci stanno lontane, ad esempio, no? E ci sono diversi modi per farlo. Le si possono preparare per giorni e giorni, ad esempio. Si può sistemare il terreno, lo si annaffia, lo si concima e si aspetta il momento giusto per giocarsi la partita. Oppure no, proprio il contrario, non si prepara niente. Si rimane lì, aspettando che qualcuno dica qualcosa, che qualcosa accada, e ci lasciamo trascinare. Se dobbiamo comunicare un cambiamento, una novità, una cosa che è accaduta, che accadrà, che non sappiamo come far accadere, ognuno di noi ha tecniche più o meno rodate, più o meno funzionanti. Voi come avete fatto a dire che mollavate il lavoro, ad esempio? Che amavate una persona, che volevate partire per un anno, che cambiavate casa, che eravate malati, guariti o comunque voi eravate diversi da come pensavano che voi foste? Come vi siete preparati a dire una cosa importante? Sono le 16:08, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. E il numero è sempre quello, il mio è quello della radio e anche quello del programma. 800240024 per chiamare in diretta oppure 349-238-6666 per mandare un sms. Mi piacerebbe che le riflessioni di oggi fossero a proposito di cose positive, nel senso che di solito le cose negative vengono non vengono molto preparate, o per lo più vengono preparate ma poi tutto salta, i piani all'ultimo momento non si riescono mai a seguire, quindi più o meno ti esplodono in mano e a quel punto non puoi far altro che guardare il patatrac che è rimasto intorno a te, magari sulla faccia o sulle mani. Quando invece dobbiamo raccontare qualcosa che si stravolgerà la nostra vita, ma che avrà uno stravolgimento positivo, che siamo rimasti incinta, vale soprattutto per gli uomini in questa giornata in particolar modo, quando si cambia lavoro, ad esempio, quando dovete raccontare a vostra moglie o a vostro marito che sai com'è, tra l'altro hanno deciso di trasferirmi per 2 anni ad Hong Kong, oppure quando avete deciso di chiederle di sposarla o di sposarlo anche, no? Come l'avete preparata quella cosa lì? Oltre ad averci pensato, e va bene, ci avete pensato parecchio tempo, magari vi siete scritti un copione, ma cosa avete fatto? L'avete portato in un posto? Avete aspettato che ci fosse una certa luce, che ci fosse una certa musica? Avete aspettato che fosse il 15 d'agosto, che facesse caldo, che facesse freddo, che fosse il suo compleanno, che fosse Natale? 800240024 349-238-6666. È il caso di Francesca. Francesca mi racconta sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. 2 momenti per così dire in parallelo. Il primo, devo dire in ufficio a capo e colleghi che sono incinta. Ho un contratto a tempo che mi garantisce la maternità, ma nessun altro tipo di futuro. Aspetto, aspetto, aspetto. Che questa è una tattica che funziona sempre, ragazzi. Aspetto, le penso tutte sul come dare la notizia e arginare i danni. Alla fine, a 5 mesi e mezzo, confesso imbarazzata la notizia e vengo accolta da timide congratulazioni. Lo sapevano dal 3° mese. Un'amica di un ex collega mi aveva sentita parlare al telefono in traghetto mentre tornavo a casa. Mi sono sentita una perfetta idiota. Torno dalla maternità e resto incinta di nuovo. Arrivo una mattina in ufficio e vedo entrare l'ex collega di cui sopra, venuto a fare un salutino. Non ci ho pensato due volte. Ah ragazzi, sapete la novità? Sono incinta di nuovo, ho preso il vizio. Applausi, abbracci e congratulazioni. Meglio giocare distinto, scrive Francesca sempre. E poi c'è una sorta di PS. Il mio capo gli hanno dovuto riavvitare entrambe le rotule. Era talmente ammazzato dalla notizia che non riusciva ad alzarsi né a proferire verbo. E questo è un caso, insomma, diciamo che Francesca non l'ha per niente preparata. Elisa invece l'ha preparata proprio bene, perché era una bella notizia da dare a sua figlia, ed è questa. Io preparo sempre, soprattutto se sono buone nuove. Quando mia figlia ha ricevuto la sua prima convocazione come solista in squadra nazionale twirling, Elisa, Elisabetta la sappiamo, la conosciamo, ha una figlia che gioca a twirling. Il twirling, per chi non lo sapesse, è quella roba, neanche Rudy lo sa, è quella roba col bastone di ferro coi pomelli che fanno girare fra le dita, che sembrano le ragazze pompon. Non ridere Rudy, ci sono squadre nazionali che lo fanno, se tu ridi sembra che lo smonti. Quando mia figlia ha ricevuto, torniamo a Elisabetta, la sua prima convocazione come solista in squadra nazionale twirling, non ci dormiva dalle notti per l'ansia dell'attesa. Quella mattina, quando arrivò la comunicazione ufficiale via email, la stampai e la misi in una busta bianca. All'una andai a prenderla con l'auto della fermata dell'autobus, misi la busta sul sedile. Quando arrivò, ancora prima di aprire la portiera, la vide e già aveva capito che era lei. Era quello che stava aspettando. È impossibile descrivere l'emozione sul suo viso e la gioia fino alle lacrime quando lesse la lettera. Avrei potuto mandare un SMS o chiamarla al telefono, ma così è rimasto un momento indimenticabile per lei e anche per me. Ecco, esattamente questa cosa qua. Cioè il fatto di trasformare un momento che è un momento, sì, un momento di cambiamento, ma che racconta di quel cambiamento, in un momento indimenticabile. 800240024. Pierluigi, il momento giusto per dire una cosa è sempre il meno adatto, qualsiasi sia l'occasione. E qui, Pierluigi, viene fuori il tuo pessimismo cosmico. Io ti direi, ecco, oggi no. Ti ringrazio. 800240024 349-238-6666. È arrivato il momento di dire le cose. Quindi domenica sera ci siamo fatti questo viaggetto di ritorno da Castiglioncello. Il viaggio non è sempre uno spazio della vita necessario a spostarsi da un luogo a un altro. Sì, lo so, l'hanno già detto in tanti, vabbè. Quando realmente esisterà il teletrasporto, il tempo del viaggio ci mancherà, secondo me. È una finestra che serve a comprendere le distanze fra i posti, le differenze fra le culture e le persone. E poi è un momento in cui la gente può confidarsi, può dire la propria, senza paura di disturbare, senza togliere tempo a qualcosa di più importante. Viaggiare in macchina poi rende ancora più complici, rende più vicini. Quando io e Natalie lo facciamo, di solito sono sereno, sono perfino felice. Quel giorno però non lo ero particolarmente, perché di mezzo c'era Giulia. Che faccio? Glielo dico? Non glielo dico? Che quella mi vuole rivedere? Cioè, in fondo non c'è niente di male, no? Tra me e lei c'è stata una relazione, quindi che ci si incontri di nuovo dopo che una relazione è finita è una cosa bella, è una fortuna, credo che dia la possibilità di capirsi meglio. E in più tiene vicine persone che hanno condiviso molto nella loro vita, che si sono scelte, avevano delle cose in comune. Forse è proprio per tutti questi motivi che dentro di me sento che se io lo dicessi a Natalie si incazzerebbe. Il problema è che io non posso darle torto, perché lo farei esattamente, pure io. Farei lo stesso se lei volesse vedere il suo ex fidanzato che l'ha mollata. Però, se me la gioco bene, cioè se trovo il momento giusto per dirglielo, magari non se la prende. In fondo ha fiducia di me, e io e Giulia ormai ci siamo lasciati e l'ho veramente dimenticata. Perché le cose dipende da quando le dici, e cambiano completamente. Le stesse cose, eh? Cioè, fin da piccoli ormai abbiamo capito che il momento migliore per chiedere il motorino a mamma e papà è dopo aver portato a casa una pagella piena di bei voti. O che la domenica pomeriggio, appena l'Inter ha vinto, puoi buttare lì a tuo padre che stai pensando di andare fuori anche stasera, se per caso avesse anche 10.000 lire. Lo si impara da piccoli che c'è un momento giusto e uno sbagliato per dire le cose. Ma chissà se per certe cose esiste veramente un momento buono e uno no. Tipo il responso di una biopsia o la risposta a un colloquio. Cioè non è che se sei di buon umore puoi prendere bene una notizia schifosa, no? Ecco, questo caso era una via di mezzo. Giulia mi voleva vedere, magari una sera a cena, ma Natalie se la sarebbe presa. Certo che se lei fosse stata molto concentrata sul suo lavoro o su un'amica in difficoltà sentimentale, sull'acquisto di un capo in saldo, sull'arrivo del Natale, avrei potuto fargliela passare come una notizia qualunque, no? Natalie di questi tempi invece no, è concentrata su di me, sul mio lavoro. È appena stata licenziata e mi vuole bene. Di questi tempi non c'è un momento giusto per dirle niente. Non importa. Non glielo dirò. Sulla strada del ritorno ci siamo fermati per cenare in un ristorantino ad Aulla. Lo conosco bene, ci si mangia due cose, ma due cose buone. E poi c'è la gente del posto, io pur di evitare gli autogrill mi mangerei anche l'erba che cresce ai bordi della strada. Ci siamo detti un po' di cose inutili e poi, dopo che lei sarebbe avuta il secondo bicchiere di rosso e io la mia Fanta, le ho detto con molta nonchalance, così come se niente fosse. Che strano, sai, l'altro giorno ho rivisto per caso Giulia in biblioteca, le consegnavo un libro. Dice che un giorno vorrebbe che ci vedessimo. E subito ho cacciato giù un boccone, così mi sono stato zitto, anzi ho mugulato un po' su quanto era buona quella carne. I due vecchi del tavolo a fianco avevano sentito tutto e mi mettevano un'angoscia terribile, perché quella gente lì c'ha un sacco di anni, ne ha viste tante, e quindi mi avevano sgamato per forza con difficoltà. Natalie invece ha fatto la superiore, ha fatto finta di niente, come se nemmeno avessi parlato. Mangiava e taceva. Al massimo diceva qualcosa sul tempo. Poi mi è venuto il dubbio. Forse no, forse non era superiore. E il suo stare zitta era solo che avrebbe voluto spaccarmi la faccia, ma non poteva farlo. E quindi è rimasta paralizzata. Il resto del viaggio a raccontarlo sembra un film di Tarkovsky. Che il silenzio io lo odio. A qualcuno piace, però sai com'è, c'è gente che ama Luigi Nono. Io no. Qualcuno non vede l'ora di stare lì fermo a riflettere. A me il vuoto sembra solo incapacità di metterci dentro qualcosa, in quello spazio rimasto vuoto. Sarà un problema mio, ma ognuno ha il suo, no? E andare avanti così con quel silenzio non poteva funzionare. Soprattutto perché certi silenzi sono peggiori di altri, no? Avete presente, se in chiesa c'è una messa, non è che ti metti a chiacchierare. Se qualcuno dorme, non è che lo svegli accendendo la radio. Però quando hai appena detto alla tua fidanzata che la tua ex ti vuole rivedere, ecco, in quel silenzio c'è tanto. C'è proprio tanto. E a me quel silenzio lì mi manda i matti. Ecco perché per il resto del viaggio ho messo CD, ho parlato di come guidano male intorno a Piacenza, ho raccontato la storia del ponte di barche sul Po. Tutto da solo. Che poi alle volte stare zitti è una forma di violenza, cioè anche stando zitti ti si può costringere a fare qualcosa. Anzi, è la forma più subdola, quella più sottile, quella più malefica. Perché sembra che fai tutto tu, e invece si era in due a fare e disfare quel silenzio. Insomma, appena prima di arrivare al casello di Melegnano, io gliel'ho detto. Senti Natalie, guarda, se la cosa non ti crea problemi, e io non vedo che problemi potrebbe creare, io martedì vedrai Giulia. It never rains, but it pours. Do keep the wolf from the door. Non lo so se c'è o non c'è un momento giusto per dire le cose, so che c'è però in teoria un modo per avvicinarsi a dire quelle cose lì. Dovevo dire a mio padre che ero bocciato in prima media, delegai mia madre, ma il frontino l'ho preso io. Ma il frontino è questo qua. Ma da quando è che i padri danno i frontini? Al massimo ti danno un coppino, sembra quel gioco del, sai, che ho visto ieri di fronte alla coppa. Vabbè dai, basta, altrimenti diventiamo Radio 14, mica Radio 24, Radio 14 anni. Lei, la mia migliore amica, questo è fantastico, Giancarlo da Vicenza. Lei, la mia migliore amica, una sera mi ha detto: stasera andiamo a sedere in riva al fiume, che ti devo dire una cosa importante. Non riesco più a nascondertela. Io ero innamorato di lei, da sempre. La raggiungo con il cuore in gola, convinto che lei mi confessasse la stessa cosa. Invece le uniche parole che ricordo limpidamente sono: Gian, sono lesbica. Giancarlo da Vicenza, Giancarlo, riprenditi anche tu. Ciao Matteo, sono Oreste. Io, per chiedere alla mia fidanzata di sposarmi, ho preparato un filmato con le nostre foto e alla fine le chiedevo di sposarmi. credo nel filmato. E mentre lei guardava il filmato, le misi l'anello dicendo di non guardare. Io sono qui. Oreste, tu sei qui, ma sembra più il dottor Stranamore. Manca, come si chiama quello che è morto? Castagna. Manca Castagna. E il quadretto è a posto. 800240024. C'è un messaggio poi che mi è arrivato oggi e non sono riuscito a fare a meno di chiamare. Loredana. Dice Loredana, quel momento è stato preparato per anni. Quando ho detto a mia figlia che era una figlia adottiva, avevo e avevamo paura. Non di perderla, ma che ci facesse la classica domanda: vorrei conoscere i miei genitori naturali. E poi, invece, cos'è successo? Pronto, Loredana? Ciao, buonasera. Ciao, a tutti. Ciao, buonasera a te, grazie per essere qui, innanzitutto. Grazie. Quanti anni aveva quando gliel'avete detto a vostra figlia? 18, era un po' grandina. Ed era con voi da quanto? Aveva 9 mesi quando l'abbiamo fatta. Ah, vabbè, quindi 18 anni praticamente. Sì, quasi 18 anni. E quando avete cominciato a pensare, dobbiamo dirglielo? Ma da subito, perché ce lo avevano proprio consigliato. Quindi avete aspettato solo questi 18 anni? Sì, ma perché l'idea era di adottarne un altro. E quindi nel momento in cui saremmo andati a prendere il fratellino o la sorellina, gliel'avremmo detto. Invece poi la vita... No, scusa, non ho capito, Loredana, perdonami. Cioè, tu avete detto, ne adottiamo un altro e quando lo adottiamo diciamo... Ah, tra l'altro una cosa, vedi com'è lui, anche tu è la stessa cosa. Beh, insomma, no, ci si prepara comunque a questo. Ok. Le e invece... parole giuste le trovi poi in quei momenti. E invece, scusami Loredana, stavi dicendo, invece arrivati 18 anni... E poi, la vita ci ha portato a prendere altre strade, non ci siamo riusciti era diventato difficile dirlo perché a 14, 15 anni, 10, insomma. E poi è arrivato il momento comunque. Dove eravate, Loredana? Eravamo in vacanza. Aspettavamo il momento giusto di agganciarci a qualcosa, non so, una trasmissione televisiva che parlasse di adozioni nel momento. Doveva essere presente anche lei, ovviamente. E quindi chiederle cosa ne pensava dell'adozione e da lì partire. Certo. Ma nessuno faceva sta benedetta trasmissione televisiva, in 18 anni non c'è stata la verità. No, è capitato, però sembrava quasi che lei sfuggisse un po'. Senti, che cosa ha risposto lei quando gliel'avete detto? Guarda, subito ci ha detto non ci credo, io sono troppo uguale a voi. Per un po' è andata avanti così, non ci credo, poi alla fine quando è intervenuto suo padre ha detto, allora diciamo ci ha creduto di più, perché ho parlato io anche lì, perché gli uomini sono sempre un po', come dire... timorosi. E poi dopo ha voluto sapere dov'era, chi lo sapeva, chi non lo sapeva, dei nostri amici, parenti, sì, e tutto. E poi mi ha detto quella frase bellissima, che è, se vuoi la leggo io, se preferisci evitarla, è: che culo che ho avuto ad avere due genitori come voi. Esatto, e continua a dirlo ancora adesso. Se ne ha 35. Ah, ma quindi questa cosa risale a tantissimi anni fa, cioè sì, sì, sì. 20... 35 anni fa. A 35 no, anni. No, perdonami, lei aveva 18 anni, quindi si parla 17 anni fa. Sì. Ok. Senti, quindi diciamo, l'insegnamento che possiamo trarne è che non è il caso di aspettare trasmissioni televisive quando arriva il momento. No, perché ci ha anche detto, appunto, tra l'altro, ma potevate dirmelo prima, vi evitavate tanto stress, tanti problemi, perché noi ci pensavamo comunque. Certo. Loredana, di che parte della Liguria sei? Genova, perfetto. Senti, ti ringrazio moltissimo per essere stata qui con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie. L'ultimo messaggio è per dire alla mia ex che era finita, siamo andati in vacanza. La borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi invece siamo in montagna, non si capisce bene dove siamo in montagna perché c'è solo una parete di erba e di pietre. Non ci sono alberi, quindi credo che siamo sopra la linea della vita, no? Che non abbiamo capito qual è, 1400, 1600, 2000 metri, ok? È estate e la protagonista della fotografia è una ragazza con tutta vestita di nero, con una lunga treccia di capelli neri, che è chiaramente una dilettante della montagna. Si vede lontano un miglio perché indossa degli anfibi, credo dei Dr. Martens, che forse sono la seconda cosa più sbagliata dopo l'infradito per la montagna. Ha su poi i pantaloni da corsa, proprio i fuseau da corsa, quelli della Decathlon, e poi vabbè un pile nero, quello ancora potrebbe andare bene. Però di tutto quello che di tutta la foto, quello che rimane impresso è che guarda il sentiero con una faccia decisamente perplessa. Serena Gambetta, 36 anni. Il sentiero è lungo, la salita faticosa, ma il paesaggio della Val Varaita è così bello che ripaga tutti gli sforzi. Sulla via dei Laghi Blu, io sono qui. È la seconda volta che torno alla Val Varaita, che è in provincia di Cuneo, dalle parti di Alba, credo. No, dalle parti di Cuneo. Perché devo... Ma perché? Ho appena detto è in provincia di Cuneo. Che fatica. Val Varaita, Piemonte. Ci sono un sacco di piemontesi che ascoltano Radio 24 questo programma. Io ho trovato il momento giusto per dire alla mia fidanzata che la lasciavo quando eravamo sul treno che ci riportava a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno. Speravo fosse Brilla che la prendesse meglio, mi picchiò. Poi un piccolo dettaglio a proposito del frontino, perché c'è stato un attimo di apertura spazio-temporale. Francesco Da Lucca mi ricorda che il padre che gli diede il frontino era perché il frontino, quando avevo 14 anni, era uso comune. Oggi ne sono passati 18 ed è praticamente sparito. Effettivamente, secondo me, se tu dici a un sedicenne che cos'è un frontino, ti guarda credendo che sia un motorino, probabilmente. Ho chiesto alla mia compagna di sposarmi durante un safari nella savana in Kenya, nella tenda di notte col sottofondo degli animali selvatici. Luca, mamma mia, Luca, mi viene quasi la nausea. Ieri ho detto al gruppo che frequento che non mi ci trovo più bene. Chicco, aspetta un attimo. Chicco, fammi un piacere, chiama questo numero 800240024, perché mi sfuggono dei dettagli. Allora, ho detto al gruppo che frequento che non mi ci trovo più bene, non sono sicuro che fosse il momento giusto, ma ora mi sento meglio e sono contento che tu stia meglio. Ma il gruppo che frequentavi era una band, un gruppo musicale o solo il gruppo di amici? Magari erano dei delinquenti, hai fatto bene ad abbandonarli. Se invece li hai abbandonati per andarti a farti delle sostanze, no, non va bene. Quando sono stato ammesso all'università volevo tenere la notizia segreta per dirla ad una riunione di famiglia, ma mia mamma lo è venuta a sapere per caso e ha rovinato la sorpresa. Va bene, grazie. Andiamo invece a sentire, ecco, queste sono decisioni importanti. Andiamo a sentire che cosa ti dice la fidanzata quando hai deciso di farti prete. Pronto, Massimiliano? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie. Senti, ma tu adesso sei in seminario, sei già stato ordinato, giusto, prete? Sì. No, praticamente la storia, il buon Dio ha deciso che dopo un'esperienza di 4 anni tornassi a casa. E quindi sono tornato in quel di Busto Arsizio. Ma scusami Massimiliano, però sei tornato a casa a Busto Arsizio o sei tornato a casa da lui? No, sono tornato. No, da lui continuiamo a essere in stretto contatto. Sono, però il mio cammino non è più quello di diventare sacerdote, ma adesso ho ricominciato la vita laicale. Ah, ok. Quindi tu hai studiato o eri già stato ordinato? No, ero in seminario. Sono stato 2 anni a Novara, 1 anno in Spagna e 1 anno a Roma. Sei stato 2 anni a Novara, seminario che conosco molto bene, il seminario di Novara del Torre un Quartara. No, però ero in una congregazione religiosa, cattolica, ma a Gozzano ero io. Ah, ok. Senti, invece raccontami di quel momento lì, perché tu eri fidanzato, mi sembra di capire. Allora, io praticamente, ho avuto una conversione forte nel 95, perché non è che fossi un ragazzo casa, chiesa e scuola, tutt'altro. E dopodiché praticamente da questa conversione, dopo nel 97 ho conosciuto questa ragazza, nel 99 ci siamo fidanzati portando avanti insieme un percorso di fede e io fondamentalmente siamo stati insieme 2 anni. Sì. In questi 2 anni poi è scaturito il fatto che lei è di Bergamo, è scaturito il desiderio di sposarci. Sì. E io però avevo questa inquietudine vocazionale che mi portava avanti da un po' di tempo, l'ho resa partecipe al mio direttore spirituale, il quale mi ha suggerito in un modo un pochettino particolare di dirmi: ok, allora vatti a fare gli esercizi spirituali con i novizi, che ogni anno i novizi di un seminario fanno gli esercizi spirituali di una settimana. Sì. Gli esercizi sono silenzio assoluto per una settimana e solo meditazioni guidate da un sacerdote. E lì, diciamo, e quella settimana è stata la tua settimana preparatoria, direi, quindi. Sì, però è coinciso, io praticamente ho dovuto creare tutti i presupposti, perché lui me l'ha detto il martedì, se gli esercizi iniziavano il sabato, io in 3 giorni ho dovuto dire alla mia famiglia, alla mia ragazza e al lavoro che andavo a fare gli esercizi spirituali. Perché ci aspettava un momento importante che dovevamo sposarci. Senti, il caso vuole. Scusa, senti. No, perché purtroppo ho altre telefonate. Vorrei capire solo che cosa ha detto lei quando, cioè come gliel'hai detto? Gli ha detto semplicemente Io gli ho detto praticamente, dopo sono andato a fare questi esercizi con la libertà di coscienza di dire se era la volontà di Dio che entri in seminario, sì, entro, se no mi sposo. E il caso vuole che la settimana dopo dovevo andare a fare il compromesso della casa, però io ho deciso che dovevo andare in seminario. Sono andato e lei, sento ancora le grida di lei che dice: io lo amo, però io me ne sono andato. Che cosa fai adesso nella vita, Massimiliano? Adesso che cosa faccio nella vita? Praticamente mi sto ricostruendo un'identità a distanza di 5 anni dall'uscita del seminario, e puoi vedere che cosa faccio nella vita guardando il sito touchingcard.com. Ok, va bene. E così abbiamo fatto anche la soletta per il lavoro e siamo a posto. Ciao Massimiliano, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Dire una cosa per comunicarla non ha bisogno di un momento di particolare, dirla per chiedere l'approvazione invece sì, ma non è onesto. Boh. Andiamo sempre a Varese, andiamo da Laura, che anche lei ha detto una roba, però l'ha detta in 2 secondi, mi sembra di capire. Pronto, Laura? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie, tu? Bene, ma quanti anni hai, Laura? 33 quasi. Ah, perché è la voce invece di una tredicenne, e visto che si parla di un matrimonio finito, temevo che fosse tutto molto molto precoce. No. Com'è successo? Ero abbastanza decisa, ma non decisa a comunicarlo. C'è stata l'occasione in cui a bruciapelo mi è stato chiesto: non mi ami più? E io ho preso un grosso respiro e gli ho detto: sì, non ti amo più. Ma scusami, da quanto eravate sposati? Ma da 3 anni. Quindi fondamentalmente, cioè, la cosa l'avevi meditata e te l'eri preparata, è stato solo il momento. Sì, però non mi ero preparata il comunicarlo all'altro, che è molto diverso, cioè il prepararsi per se stessi. Beh, ma mi sembra che però ci voglia molto poco a dire no. Però distruggi l'altro, cioè nel senso... Lo immagino. Senti, quando è successa questa cosa, Laura? 3 anni fa. 3 anni fa. Adesso cosa fai? Se sei risposata, c'hai uno straccio di fidanzato, sei single? No, ho un fidanzato, io sto bene, anche lui, è tutto a posto. Sì, però un po' dispiace aver distrutto in 2 secondi, cioè per me è stato liberatorio, ma per l'altro è stato veramente invece devastante. Il gioco si fa così. Laura, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Io sto ancora cercando l'occasione per dire a mio padre che io e la mia ragazza abbiamo intenzione di trasferirci in Australia. E dato che lui è anche il mio titolare, è un po' un casino. Lo so che è la cosa giusta per noi, ma di certo lui non capirà mai. Aiuto. A questo punto non so se dire il nome di questa persona. Io lo dico, Fiore da Treviso. Se c'è il papà che ascolta, quanti fiori ci saranno a Treviso, no? Ha mandato un messaggio. Evidentemente, Fiore, tu volevi che io lo dicessi. Papà di Fiore, capita. Cioè, i figli vanno lasciati andare, c'è una fidanzata, vogliono andare in Australia, tanto alla fine se era un figlio che lavorava in azienda vuol dire che probabilmente è sostituibile. Andiamo da Mirko da Trento, che ce la facciamo. Pronto Mirko? Ciao Matteo. Ciao Mirko, raccontami tutto, visto che mi hai scritto. Non sapevo se dirle oggi che la voglio sposare, ma oggi? Sì, io stavo uscendo da lavoro e stavo pensando di andare a prendere le fedi, a comprare le fedi e portarle le fedi al posto delle mimose, giusto per la festa della donna. Poi ho deciso che non è il caso. Ma perché non è il caso, Mirko, scusami? Non è il caso perché penso di dover aspettare un momento differente. Penso di dover, non per il tempo, non per l'amore che trovo per lei, ma penso di dover aspettare un altro momento. Secondo me, guarda, un altro momento è anche semplicemente domani, per il semplice fatto che l'8 di marzo forse è un po' stucchevole portare le fedi per il matrimonio. Che dici? Anche perché lei stasera andrà a mangiare la pizza. Siamo andati ieri. Adesso, tutte le donne, capito? Certo, lo stereotipo delle donne che vanno a mangiare la pizza. Fatevi un giro nelle pizzerie di Milano, poi ne parliamo. Senti, quindi da quanto state insieme, Mirko? Noi siamo insieme da 6 anni. Ah, ok. Da 6 anni, ci siamo conosciuti al mare. Era mia vicina di ombrellone. Quanti anni avevate? Anche lei. Allora, lei aveva 16 anni e io ho compiuto i 18 quando lei mi ha chiesto di mettermi con lei. Magnifico. Quindi anche lei ha aspettato il momento giusto, diciamo. Mirko, senti, ti devo salutare, però fammi una promessa che sì, quando glielo dirai me lo dici, mi mandi una mail. Sì, oppure ti scrivo tutti i giorni e mi leggi praticamente quasi tutti i giorni. Benissimo, e ne sono felice. Io sono quello che scriveva il messaggio mentre guidava giorni, mesi e mesi fa. Ah, ok, ok, ok. Faccio finta di ricordarmi, ma credo che a breve mi torna alla mente. Mirko, grazie ancora e buona giornata. Grazie a te, ciao, alla prossima. Ciao. Volevo leggervi un'ultima cosa che ho trovato prima, perché cercavo su Google semplicemente qualcosa che trovasse a proposito del momento giusto per dire le cose. E pare che il momento giusto per dire le cose che cambiano la vita sia metà settembre. È arrivato il momento giusto per dire me ne vado. Quasi una persona su tre decide di cambiare vita nel mese di settembre. Non immediatamente dopo il rientro dalle ferie. È necessario qualche giorno di riflessione, perfino di macerazione. Dopodiché, a metà del mese di settembre, scatta la svolta. Che può riguardare il rapporto con il coniuge o magari soltanto le tende del salotto. Ma sempre più spesso, con un mercato in effervescenza come da tempo non lo si vedeva, il cambiamento riguarda il lavoro. Alcuni segnali avvertono che è arrivato il momento di guardarsi intorno. 1. Scarsa considerazione e senso di noia. 2. Qualifica e formazione sprecate o sottostimate dal punto di vista retributivo. 3. Carriera senza sbocchi. 4. Azienda in crisi. 5. Conflitti insanabili con colleghi o superiori. 6. Capo incapace di delegare o di offrire continue motivazioni. 7. Stress. La maggioranza di chi lavora decide di cambiare nel momento in cui entra in crisi, e quel momento di solito è alla metà del mese di settembre. Peccato che spesso questa decisione arrivi tardi. Daniele da Venezia scrive: di al papà di Fiore che assuma me. Visto, papà di Fiore, c'è già un sacco di candidati. Ho appena detto ai miei capi che a fine anno me ne vado, ci provo io da solo. Decisione presa in 3 secondi e comunicata in 5. Magari non è la decisione giusta, neanche comunicata nel migliore dei modi, ma io sono felice. Tu sei bravo e prenderai il posto di Linus. Sì, e magari parlerò solo di maratona. Grazie a Viola Bottoni, grazie a Rudy Cantadori e grazie a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?